Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. E bentornati Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi prende in rassegna una nuova rivista, La fine del mondo, sottotitolo L'ultima rivista di fumetti, che ha una sua produzione autonoma, ma viene anche inserita una volta al mese dentro il manifesto. Una pubblicazione a base di fumetti che presentano sia la vecchia guardia come Bruno Bozzetto, sia le nuove generazioni come quelle di Zetalmi, passando per una serie di autori molto famosi e magari alcuni un po' meno, ma tutti molto meritevoli. Dirne di più, il nostro William Piana ha interpellato Michael e Mirko, che è uno dei protagonisti di questa rivista, che ci spiega le sue caratteristiche e anche la logistica di questa nuova produzione, La fine del mondo, l'ultima rivista di fumetti. Noi italiani siamo in particolar modo resti a creare monumenti, cioè proprio siamo l'antitesi del monumento e ci dà fastidio proprio tributare gli onori, però credo che sia il momento giusto, proprio il momento esatto di riconoscere il fumetto, è il linguaggio dei linguaggi per me, e quindi uno spazio mensile alla portata di tutte le tasche sia necessario. Soprattutto per le nuove generazioni, noi ragioniamo sempre parlando di noi, guardiamo il mondo dal nostro punto di vista sempre, no? Quello che manca a noi, ma in realtà bisogna vedere quello che manca a tutti i lettori, allo spazio di lettori, da quando uno comincia a muovere i primi passi nel mondo del fumetto fino ai lettori più navigati. È una rivista necessaria, abbiamo visto proprio che la risposta del pubblico è stato un abbraccio clamorosissimo, sì. Dove tutti dicevano era ora, e in questo era ora si nasconde proprio l'idea che c'è dietro la rivista, che è semplicissimo di aggiungere uno spazio continuo, perché il fumetto è dappertutto, il fumetto esistono altre riviste, in tutte le riviste in realtà adesso è contemplato il fumetto, ma un posto proprio dove il fumetto venga tributato e che sia il principale linguaggio ancora mancava. Tra l'altro i fumetti vengono buttati in pasto ai lettori senza spiegazioni, perché siamo convinti, bravo, che i fumetti si spieghino da soli. Io e te ci siamo trovati di fronte in edicola per anni, fumetti e basta, mischiati tra di loro, un fumetto che non c'entrava nulla con l'altro, o saltavi un numero perché non lo trovavi in edicola, eppure siamo andati dai lettori fervidi e acculturare il fumetto, e credo che sia la stessa cosa, che bisogna dare ai lettori solo buone storie di bravissimi autori, sì. Nient'altro. All'interno di questa selezione del numero zero troviamo Eliana Albertini, che saluto da Taglio di Po. Lei è un'artista, secondo me lei è una poetessa. Lei io l'adoro proprio. Lei fa poesia. Gipi, che non ha bisogno di presentazioni, beh, poi aggiungo Zero Calcare, lo stesso Michael e Mirko, poi Bruno Bozzetto anche ho visto nella entusiasta, tra l'altro, che è esordito come sempre forte della sua modestia dicendo ma io non faccio fumetti. In realtà è vero o non è vero, perché Bruno ne ha fatti diversi e il suo linguaggio è talmente parente prossimo dei fumetti, tra l'altro tutto il mio mondo è il ritmo, i sfondi che non ci sono, gli oggetti che appaiono arrivano proprio dai suoi cartoni animati. E chiude la rivista insieme a Blu, che è un'altra, sì, conoscenza sicuramente, che qui a Bologna, insomma, un'altra gloria nazionale, che ha frequentato il palcoscenico di Bologna da protagonista per anni, chiude la rivista con una tavola finale sempre ogni mese, come fosse un muro su carta. e sono gli autori un po' più strani da trovare in una rivista di fumetti, ma che se poi li leggi ci calzano secondo me a pennello. Però si aggiungeva anche una possibilità ulteriore, che tu hai detto è un prezzo accessibile, perché io ricordo che l'Eternauta, altri lavori importantissimi, io veramente facevo dei pianti, perché allora avevo 14, 15, 16 anni e li desideravo ardentemente, ma costicchiavano. Certo. Sì, secondo me la strada è proprio quella di una rivista popolare, perché la rivista, cioè, allora diciamo una cosa, di progetti di fumetto, libri, progetti editoriali siamo pieni e sono tutti di una qualità immensa, quindi il mercato gode di un'ottima salute. Quello che manca è un cavallo di Troia, qualcosa che costi poco, che ti faccia sezionare a lettori che altrimenti magari non compreresti in forma di volume e per cui non saresti disposto a spendere 30 euro che la paga molto spesso una giornata di lavoro, se non di più. E allora la rivista serve a darti in mano a pochissimo tantissimo. E poi sei tu, insomma, che scegli i tuoi nuovi autori preferiti, quelli su cui investire, su cui spendere. Abbiamo anche consigli di lettura alla fine della rivista, gratuitamente, inseriti in fondo alle biografie. Ci sono anche, se ti è piaciuto questo autore, leggi questo suo libro pubblicato da. Perché è proprio una rivista che serve da conduttore nel mercato, serve da volano, fa parte del meccanismo, non si inserisce al posto di niente, ma si inserisce perché riempie un vuoto. E questa cosa serve a mettere in un coordinamento, diciamo, tutto il mercato, tutta la filiera, i lettori con gli autori con gli editori, gli editori con i lettori. E a questo punto alcune informazioni anche tecnico-logistiche. Esatto, avrà una cadenza? Allora, è una rivista mensile di grande formato a colori, indipendente dal quotidiano, che però il giorno dell'uscita esce abbinato al quotidiano. Ah, quindi okay. Il giorno che esce invece di 4 euro costa 5 euro, perché il manifesto invece di 1,50 euro quel giorno costa 1 euro, quindi rivista più il giornale sono 5 euro soli. Dal secondo giorno poi rimane liberamente in edicola al prezzo normale di 4 euro. È in edicola principalmente ed è un regalo che noi facciamo alle edicole, che per noi sono un tempio. Sono un tesoro. E quindi prendetela in edicola. Però stiamo attivando, seguite la pagina Instagram, che è l'unico canale proprio della rivista che abbiamo attivato, e si chiama La Fine del Mondo Rivista, dove lì attiveremo altri canali di distribuzione, perché per esempio nell'isola il manifesto ancora non arriva, sono dei vuoti da riempire, e adesso diamo notizie di altri canali per acquisirlo. Però ci piace che una persona esca, un lettore vada in edicola, faccia la fila, aspetti che l'edicolante spacchetti i pacchi, come abbiamo fatto per tanto tempo. Mi ricordo gli appostamenti di fronte all'edicola prima di andare a scuola, aspettare Star Magazine piuttosto che Hyperion, piuttosto che l'Uomo Ragno 133. Aggiungo solo che l'ultima rivista di fumetti, oltre ad essere una simpatica provocazione al titolo, in realtà però è anche secondo me una verità, nel senso che è l'ultima formula che deve avere una rivista. Noi abbiamo fatto di tutto, siamo arrivati riviste a tema, riviste con dentro articoli di autori famosi, qualunque cosa per portare l'attenzione sul fumetto. Adesso che il fumetto è riconosciutissimo, questa deve essere la forma definitiva di una rivista, cioè fumetto dall'inizio alla fine e basta. E la rivista deve stare in piedi solo sulle gambe dei propri autori, delle proprie storie, dei propri lettori e del proprio affetto che c'è per la rivista. Quindi questo, mi auguro che nascano altre 30 riviste di fumetto, certo, magari anche più belle, ma che abbiano questa struttura. Fumetto per chi ama i fumetti. Dico una sola cosa su Linus, che è uno dei miei posti del cuore. Sì. Avevano 20 copie prenotate, c'è stato un firmacopie, ieri abbiamo attivato il firmacopie nelle edicole, non si sono mai fatti, è venuta Martina Servizio, un'autrice che tra le mie preferite, tra l'altro, e hanno dedicato non 20 ma 60 copie, hanno esaurito tutte e 60 le copie che avevano in mezz'ora, e adesso stanno facendo rifornimenti, quindi se volete tornare da Linus dovrebbero essere già ritornate altre copie. Questo per dire però quanto poi funzionino queste cose, quanto non rimangano solo in un progetto e quanto si possano fare delle cose minime, come anche andare a fare le firmacopie in edicola per riavviare tutto un settore che secondo me aspetta solo di essere riavviato. Oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto. Sono fuori dal coro, nettamente diverso, le mode se ne vanno, io